Radio 24 e Salone del Libro 2011 presentano L'Italia in 15 libri. Umberto Eco, Il nome della rosa. Fratelli francescani, voi dovete lasciare questo posto immediatamente. Il demonio imperversa in questa abbazia. Umberto Eco è probabilmente l'intellettuale italiano vivente più famoso al mondo e in effetti gli studi filosofici e linguistici lo hanno reso noto a livello internazionale con lezioni, corsi e conferenze nelle più importanti università mondiali. Nel 1980 pubblica il suo primo romanzo, Il nome della rosa. È un giallo di ambientazione medievale condito di teologia e filosofia, ingredienti degni di uno studioso di fama come Eco, più che di un narratore agli esordi, come ricorda il giornalista Antonio Gnoli nel 2005. Un illustre semiologo che si affacciava anche alla fama internazionale che decide improvvisamente di scrivere un romanzo. Questo rischio, di cui peraltro lui era ben consapevole, in qualche modo veniva mitigato da questa sua capacità di ironizzare sulla letteratura, di riuscire a costruire dei pastiche con questa spontanea istintivo bisogno di narrare. Sullo sfondo della storia c'è il secondo libro sulla commedia della poetica di Aristotele. È il 1327 e nella biblioteca di un'abbazia benedettina del nord Italia è conservata l'unica copia ai tempi conosciuta. Proprio mentre nell'abbazia hanno luogo inspiegabili omicidi, arriva il frate francescano Guglielmo da Baskerville, un po' Sherlock Holmes, un po' Guglielmo da Occam, padre della scolastica e del ragionamento deduttivo. Non dobbiamo farci suggestionare dalle farneticanti vociferazioni sull'anticristo. Cerchiamo invece di usare la nostra intelligenza per tentare di risolvere questo affascinante enigma. Guglielmo scioglierà l'enigma delle morti nei 7 giorni in cui si svolge il romanzo, ma mettendo a serio rischio se stesso, la sua fiducia nei libri e nella ragione. Il commento di Gianfranco Fabi. È un romanzo che mette insieme tanti elementi storici, elementi psicologici, elementi religiosi, teologici, è sostanzialmente però un giallo. È un grande romanzo anche epico che apre le porte a una conoscenza approfondita anche del mondo medievale. La ricchezza dei rimandi letterari contenuti nel romanzo è sconfinata. Guglielmo, oltre a Conan Doyle, si ispira al monaco detective della scrittrice Alice Peters. Il bibliotecario è una perfetta parodia di Jorge Luis Borges e il libro è intessuto di citazioni da testi tardolatini, medievali, oltre che da romanzi cinesi del XVI secolo e dalle Mille e una notte. Ho sempre ritenuto, specie per i romanzi, che sovente il libro dice delle cose a cui l'autore non aveva pensato, ma che il lettore è autorizzato a trovare. Però il libro controlla anche gli eccessi di interpretazione. E spiego subito un caso. Moltissimi dei recensori, a proposito del titolo, Il nome della rosa e del verso finale che allude alla rosa, hanno detto: ah, c'è un rapporto con Shakespeare, Giulietta, Romeo e Rose by any other name. Beh, il finale del mio libro dice le cose non ci sono più, rimane solo il nome. Shakespeare dice, anche se la rosa avesse un altro nome, sarebbe sempre lei. Quindi nel mio c'è un potere dato ai nomi e in Shakespeare c'è un potere dato alle cose. Potete dire che preferite Shakespeare a me, ma non potete dire che abbiamo detto la stessa cosa. Il nome della rosa ha raccolto un successo planetario, 44 traduzioni e milioni di copie vendute. Nel 1986 il regista Jean-Jacques Annaud ne ha tratto un film magistralmente interpretato da Sean Connery, anch'esso campione al botteghino. Ma la misura della fama di questo libro è forse nel fatto che dal nome della rosa sia stato tratto anche un videogioco, La Badia del Crimen, un successo che Umberto Eco sente ancora sulle sue spalle a distanza di più di 30 anni dalla prima pubblicazione. Cosa succede se io scrivo oggi un altro libro? Chiunque legge la recensione dice: ah, questo è l'autore del nome della rosa che io non ho ancora letto, e va a comprare o a leggere Il nome della rosa. Pazienza, mi è successa sta disgrazia di aver successo col primo libro. L'Italia in 15 libri è un programma di Guido Scotti. Tutte le puntate sono scaricabili all'indirizzo www.radio24.it.